Parliamo con l'elefante di Giuliano Ferrara. Buongiorno, 800 24 0024. Abbiamo in studio Piero Fassino, che è uno dei leader storici dei DS e del Partito Democratico, che ha contribuito a fondare. Oggi è il responsabile della politica estera del Partito Democratico, Piero Fassino. E poi avremo ai microfoni Massimo Giannini, vice direttore della Repubblica, e Mario Giordano, direttore del giornale, che anzi saluto subito se ci sono. Buongiorno. Buongiorno. Allora, perché, cioè, di che cosa vogliamo discutere? Vogliamo discutere delle cose più importanti dell'attualità, non solo le elezioni europee, i programmi dei partiti, i candidati e va bene, ma Maroni, il respingimento alle frontiere, è un grande tema, direi che è il tema oggi più importante. Per la prima volta, invece di aspettare, invece di far sì che i barconi pieni di disperazione umana e di ansia di mettere piede in un paese libero e, diciamo, in un paese dell'abbondanza rispetto ai loro standard di vita come l'Italia, per la prima volta i barconi della disperazione, invece di essere attesi passivamente e una volta bucata la frontiera di essere, diciamo, la gente viene sbarcata e viene accolta e accudita, si è scelta un'altra strada che era prevista dagli accordi firmati da Giuliano Amato con la Libia e poi ribaditi e consolidati da Berlusconi con la Libia di Gheddafi. Il respingimento, cioè sono state individuate queste barche per un certo periodo, come ha detto il capo della polizia Manganelli, lo hanno fatto i libici, poi i libici hanno chiesto agli italiani di contribuire, la Guardia Costiera ha contribuito, cioè noi italiani con i nostri mezzi, le nostre imbarcazioni, abbiamo respinto questi barconi che erano in acque internazionali e li abbiamo riportati da dove venivano in Libia. Questo ha scatenato un putiferio, c'è protesta, orrore in una parte dell'opinione pubblica italiana e internazionale, e invece c'è plauso e come dire, appoggio strategico in un'altra parte. L'ONU, le Nazioni Unite sono dalla parte dell'orrore, perché dicono in questo modo non si consente a chi vuole fare domanda d'asilo, quindi a chi si considera profugo e chiede lo statuto di rifugiato politico, di farlo, perché se vengono respinti alle frontiere naturalmente non possono fare questo. Il che però naturalmente osservo io, ma poi ne discuteremo, insomma, naturalmente io non vi risparmierò la mia opinione, ma quella importante è l'opinione di Fassino, e che incalzeremo su questo. Naturalmente io penso che se questo è vero, allora le frontiere devono essere aperte, bisogna fare una specie di trattato di Schengen universale, e non esiste più il problema della immigrazione, né regolare né irregolare, si abbattono tutte le differenze, perché se questa è la verità è ovvio che tu apri le frontiere e poi niente, devi accogliere qualunque tipo di migrazione si presenti. Se l'Africa si svuota per un fenomeno di intreccio tra storia e demografia e si riversa sulle coste nord del Mediterraneo, tu lo devi accettare. Insomma, mi sembra una decisione, prima di prendere questa decisione, una decisione piuttosto importante, prima di prendere questa decisione ci si deve pensare due volte. Parleremo poi di tante altre cose, compresa la vicenda Fiat che continua. Fassino è torinese, conosce molto bene il mondo Fiat, il mondo industriale, sa che cosa vuol dire produrre le automobili. Parleremo del divorzio fatale, perché di tutto si deve parlare, sempre, diciamo, lo stile che abbiamo cercato di seguire fino a qui, e di tante altre cose. Bene, parliamo con l'onorevole Fassino. Lei è con Maroni o con l'ONU, onorevole Fassino? Dunque, allora, avendo avuto la responsabilità quando ero al governo anche di questo tema, perché ero, quando ero sottosegretario agli esteri, avevo la delega anche ai problemi dell'immigrazione, sì, e delle relazioni con gli stati, sì, da cui arrivavano gli immigrati clandestini. Conosco bene la materia, credo, e credo che bisogna dire delle cose, spiegarla e dire le cose come sono. Sì. Intanto il respingimento alle frontiere non è una cosa che improvvisamente nasce oggi. No, sì. Respingimento alle frontiere è una azione di contrasto, di dissuasione dall'ingresso dei clandestini, che è diciamo prevista in tutte le i documenti dell'Unione Europea, e che l'Italia ha applicato anche precedentemente a oggi. Io ricordo che quando eravamo al governo facemmo dei respingimenti alle frontiere, soprattutto alle frontiere di terra. Era il momento in cui c'era un'ondata di immigrazione clandestina che arrivava da est attraverso frontiere di terra, e noi rafforzammo tutti i meccanismi di presidio nelle frontiere per evitare che ci fosse ingresso clandestino, respingendo, cioè non facendo entrare sostanzialmente. Sì. Il tema diventa più delicato quando si è in alto mare, perché il diritto internazionale dice che chi è in alto mare deve essere soccorso e non può essere lasciato al suo destino. Sì. Allora, se si sa da dove un barcone pieno di immigrati clandestini è partito, il respingimento lo si può fare come lo si è fatto ieri, e cioè si prende il barcone e lo si porta da dove è arrivato. Sì. È un caso abbastanza raro, perché in genere questi barconi, quando arrivano, hanno fatto più passaggi, sono partiti da un porto, sono passati in un'isola di un altro stato. Io ricordo che avremmo una querelle grossissima. Ecco, mi scusi se... Grossissima, faccio l'esempio per dire la complessità. Sì, no, vorrei soltanto puntualizzare una cosa. Lei ha risposto: sto con Maroni. No, io dico che il respingimento alle frontiere fa parte... adesso io traduco. No, perché no. Ma perché no? Scusi. No, perché io sono una persona seria. E non mi interessa, come dire, lo schieramento politico. Allora, Fassino sta con Maroni, Franceschini contro Maroni. Domani il titolo è PD diviso. E tutte queste pippe. No, non è la realtà. E tutte queste pippe, mi scusi la brutalità delle parole, di cui ne abbiamo tutti le tasche piene. Proviamo a affrontare i problemi seriamente. Affrontare i problemi seriamente, onorevole Fassino, vuol dire non mentire. E io non mento, le ho detto che il respingimento alle frontiere è previsto. E io le ho detto fatto. Che questa risposta vuol dire che lei sta con Maroni, no, con il governo. Io dico che Franceschini è contro, basta, discutetela tra di voi. Ma Franceschini intanto non è contro, non ha detto niente. L'ha detto contro lei adesso? No, ho detto come i giornali interpretano tutti i giorni le vicende. Ho fatto l'esempio. Capisci, è difficile discutere, però è così. Perché qualsiasi argomento... lei vuole prendere il microfono, sembra Berlusconi. No, cosa non sono fa? Vuole Berlusconi. Prendere il microfono e fare un monologo. Abbia pazienza, le ho chiesto, è d'accordo con il respingimento di Maroni o con le critiche che gli fa l'ONU? Mi ha detto che è d'accordo con Maroni. Io glielo dico, lei dice, Ferrara, lei è un fazioso e mi vuole interpretare. No, Ferrara, lei pensa che le trasmissioni siano lasciare a Ma no, io penso semplicemente che lei ha detto una cosa e bisogna tradurla, perché sennò è politichese, la gente non capisce. No, io parlo in italiano. Tra le mie caratteristiche positive c'è che non parli da solo. E poi la metto in contatto con i due Io stavo cercando di spiegare ai nostri ascoltatori. Roba da pazzi lo dico io. Parli da solo, le do la facoltà di parola. A parte che lei non fa parlare quasi nessuno, e quindi è quasi sempre lei che parla da solo. Io stavo cercando di spiegare ai nostri ascoltatori il tema, senza ridurlo tutte le volte al referendum sì o no. Ma ridurlo, c'è una divisione politica sul tema dell'immigrazione, va discussa, no? È tanto semplice. E discutendone la si può spiegare. La spieghi forse. E allora, per esempio, io sono favorevole al respingimento alle frontiere. Non sono favorevole, come dicono alcuni esponenti amici di Maroni, che bisogna sparare sui barconi quando li si avvicinano alle coste. Comunque, non questo... so di cosa vogliamo parlare, dica. Non lo so, dico, se lei è in questo stato la mattina... Ma non sono in questo stato. Scusi, abbia pazienza. Io mi ribello a una politica tradotta al quiz. Ma non c'è nessun quiz, c'è una domanda. Le domande sono una cosa seria, c'è un problema. Io spero, siccome l'Unità, che è un giornale diciamo che appoggia la linea Franceschini, appoggia il PD, ha delle relazioni politiche, editoriali con voi... Oggi tratta il respingimento di Maroni come se avesse cannoneggiato le barche. E io non sono esattamente, d'accordo. Esattamente la stessa stregua. Io non è che voglio dimostrare che la sinistra è divisa. Voglio parlare con un leader responsabile del Partito Democratico di questo tema. E sono felice di sapere da lei che lei non rinnega l'accordo amato Gheddafi e non è fazioso e fa un ragionamento serio sui respingimenti alla frontiera. Però le dico, guardi, paradossalmente, da un punto di vista critico che c'è nel paese, come si risponde all'obiezione sul fatto che questi che vogliono venire da noi, per esempio, per chiedere lo statuto di profughi, nel momento in cui vengono respinti, come dire, infatti volevo affrontare questo tema, ma siccome il problema era stare con Maroni o non stare con Maroni, non si poteva discuterne. Allora, io ho cercato di dire, e continuo a dire, che il respingimento alle frontiere è uno strumento previsto dal diritto internazionale, previsto dagli accordi. Lo abbiamo praticato anche nei governi del centrosinistra, quindi personalmente non vedo nessuna ragione di scandalo o di contrarietà. Naturalmente, il problema che pone l'ONU c'è, ma non è di facile soluzione. Perché non è di facile soluzione? Perché teoricamente bisognerebbe fermare il barcone, chiedere a ciascuno delle persone, individuare chi sono ciascuno, riuscire a distinguere chi è una persona che ha diritto all'asilo politico e chi invece è solo un immigrato clandestino. Questo nel giro di poche ore su un barcone in alto mare non si può fare e quindi di qui la complessità. Quindi il rilievo dell'ONU è in linea di principio giusto, in linea pratica molto complesso da gestire. So se è chiaro. Perfetto, assolutamente. In linea di principio giusto, in linea di fatto impossibile da accettare, da accogliere. Ma secondo me questa è una notizia, cioè a me interessa il fatto che un leader autorevole del Partito Democratico su questa questione che sta, voglio dire, oggi c'è un clima da leggi razziali, il decreto sicurezza, il respingimento alle frontiere, cioè si mette tutto insieme. La Lega sta giocando naturalmente una partita. È la Lega che mette tutto insieme, perché la Lega mette insieme il respingimento, che io condivido, e i posti sui tram di Milano per i cittadini nati a Milano, che è una stupidaggine. Anche se mi dicono quelli che hanno sentito l'intervista ieri, la mandata Cruciani alla Zanzara, che era solo una battuta. Però a forza di battute poi naturalmente i vari Matteo Salvini, che sembrano direttamente pagati dall'opposizione, rischiano di travolgere la politica del governo, e un atto responsabile come quello di Meloni è farlo sembrare una vigliaccata degna dell'apartheid. Bene, sentiamo su questa questione il vice direttore di Repubblica Massimo Giannini. Repubblica oggi è molto in forma, diciamo, nell'attacco al nuovo razzismo. Ma noi puntiamo, direi, l'attenzione soprattutto sulla parte che riguarda l'iniziativa di Salvini e della Lega a proposito dei posti sui tram dedicati ai milanesi. Beh no, c'è un articolo di Francesco Viviano che dice che insomma praticamente abbiamo consegnato questi barconi alla tortura e non so che cos'altro. Beh sì, quello diciamo è più una parte che riguarda la cronaca, non è tanto una linea di commento editoriale, mentre abbiamo un commento specifico sul tema della Lega. Non c'è dubbio, questo ricalca il reportage di Viviano, ricalca le perplessità e i dubbi ai quali faceva cenno prima l'onorevole Fassino con riferimento alla complessità e alla difficoltà di accertare, quando si sta in alto mare, qual è la natura dell'immigrato che sta arrivando nelle due coste. È difficile capire se è un profugo e che poi che destino ha. Comunque dopo, lei che previsione fa? Perché per esempio Stefano Folli sul Sole 24 Ore di oggi, nella sua nota politica, dice: beh, qui è una cosa molto seria, ecco, dice, non è solo campagna elettorale, la Lega sta inasprendo i toni dal decreto sicurezza in poi perché si rende conto che qualcosa non gira per il verso giusto nel rapporto con Berlusconi, quindi punta tutto su se stessa e sulla propria visibilità. Sì, io credo che questo sia senz'altro un aspetto peraltro evidente in tutto quello che sta accadendo in questi giorni, in queste settimane. Penso anche che sia frutto probabilmente del delicato equilibrio che non solo il centrodestra ma anche il centrosinistra stanno ricercando rispetto al referendum che si avvicina, perché quello è un elemento che effettivamente può creare. Dopo ne parleremo naturalmente anche del referendum. Certo, grossi fattori di destabilizzazione. Giordano, lei che pensa? Lei dirige un giornale che oggi ha in prima pagina un titolone, diciamo, molto, molto forte di appoggio, dice: finalmente li respingono, finalmente li tengono fuori. Intanto sono grato dall'inizio della trasmissione che ci ha regalato, come diceva lei, una notizia, perché credo appunto che la posizione di Fassino sia molto interessante. Io credo che finalmente li rimandiamo a casa perché si applica il criterio di respingimento alla frontiera, che, come ci spiegava l'onorevole Fassino, è stato applicato già in passato a terra, ma non per le situazioni di mare, che altri paesi come la Spagna del democratico Zapatero invece applica regolarmente. Dopodiché perché io credo che l'identificazione, il fatto che ci siano persone che hanno diritto all'asilo politico, sia un grandissimo problema internazionale, ma non sia un problema dell'Italia, fino a che non sbarcano in Italia, diventa dell'Italia nel momento in cui sono in Italia, nel senso che è evidente che è un problema se una persona in un qualsiasi paese del mondo, in un qualsiasi luogo della terra, subisce torture, angherie e o ha diritto all'asilo politico, ma non può immediatamente diventare un problema dell'Italia, non tutti questi problemi si possono riversare sull'Italia. Dopodiché confondere queste cose con i cannoni, come fa l'onorevole Passino, a me sembra una delle esagerazioni. Giordano, non l'ho confuso, ho detto no. Cioè... Ah vabbè, adesso quello era un momento di... Io ho detto un'altra cosa, ho detto che dire che si è favorevoli al respingimento alle frontiere, come ho detto io, e io le dico di più, siccome ho firmato io la convenzione sul prelievo delle impronte digitali, l'Eurodac, io sono anche favorevole a prendere al rilievo delle impronte digitali come forma di riconoscimento, soprattutto per persone che non hanno altre forme di identificazione. Quindi non ho nessun dubbio su questo. Tradurre questo strumentalmente nel dire, se si dice questo, allora si è d'accordo con tutto ciò che Maroni e la Lega dicono sull'immigrazione, è una forzatura. È una forzatura, è chiaro. Questo non l'ha detto nessuno. Io chiedo solo che si sia chiari su questo. Certo, vorrei vedere. No, scusi, Giordano, mi dica chi è che paga Matteo Salvini? No, ma me lo dica, perché cioè voi... Secondo me, io l'ho scritto, noi stamattina abbiamo scritto chiaramente, Salvini è stato l'unico che è riuscito a dare ragione a Franceschini, a dare un appiglio alla cretinata di Franceschini sulle leggi razziali, che era una cosa che non stava né in cielo né in terra, se ha dato uno spiraglio di credibilità alla frase di Franceschini è stata... Però c'ho una cattiva notizia per lei, Giordano, nel senso che lei è un leader d'opinione, diciamo, forte, radicale su questo terreno dell'immigrazione, essendo direttore del giornale. Dicono che però Salvini in realtà non è né un pazzo né uno che lo fa, diciamo, per scopi traversi e obliqui, ma questa è naturalmente solo una battuta, e che la Lega fa sempre così, cioè la Lega è un partito di governo e di osteria. Al governo Maroni applica la convenzione di Amato, si presenta con serietà col capo della polizia, fa discorsi eccetera, nel pacchetto sicurezza si premura di argomentare le varie cose, poi i media va bene, i medici no, va bene. Invece in osteria, in piazza, i Salvini, i Gentilini di Treviso, eccetera, eccetera, furoreggiano perché vogliono attrarre voti. E quindi l'idea sarebbe che Salvini parla così perché agli italiani, ai milanesi, se tu gli dici che in metropolitana non devono più incontrare gli immigrati e mescolarsi con loro, sono tutti contenti e li votano. Sarà così? Può essere che in parte sia così, che si vada a raccogliere in una parte dell'elettorato, però come credo che giustamente l'onorevole Fassino chieda di distinguere, essere d'accordo sul respingimento significa, altrettanto viene a dire che essere d'accordo sulle posizioni della Lega, la Lega, essere d'accordo sulla posizione della Lega di governo non significa essere d'accordo sulla posizione della Lega d'osteria, anzi, motivo in più significa condannare con fermezza la Lega d'osteria, se fa guadagnare qualche voto in più. Va bene. Bene, 800 24 00 24, Piero Fassino al microfono, Domenico da Udine. Buongiorno. Innanzitutto voglio dirgli che mi manca tanto a cena. Va bene. Che ritorni. Volevo soltanto dire una cosa. Innanzitutto premetto che sono figlio di emigrante, che nella mia azienda il 70% sono extracomunitari, e però vorrei dire all'onorevole Fassino che bisogna mettere due paletti. Primo, si vogliono i confini o non si vogliono i confini? Secondo, si vuole la legalità in questo paese o non si vuole la legalità in questo paese? Mi pare che Fassino, da questo punto di vista, con le cose che ha detto qui, sia proprio schierato sull'idea che... Sul secondo ancora no. Cioè, io le rispondo volentieri, però mi permetta di dire che è proprio il classico caso di un pregiudizio, perché lei, come se non avessi detto nulla, se io avessi detto il respingimento alle frontiere è sbagliato, bisogna far entrare tutti, le sue obiezioni sarebbero giuste. Ho detto il respingimento alle frontiere è invece un mezzo che non può essere esorcizzato e va usato, o addirittura aggiunto, così come non vanno esorcizzate le impronte digitali, e lei mi dice non va bene, io non so più che cosa le devo dire. Va bene, dunque c'è Salvini al telefono, Matteo Salvini. Buongiorno Salvini. Buongiorno, vi stavo ascoltando. Senta, lei sa chi era Rosa Parks? Sì, Sì, ecco. Sì, cioè, lei sa che la coscienza, appunto, la coscienza democratica del mondo moderno si è forgiata su questo grande episodio americano. Cioè, in Trump siamo tutti uguali, almeno lì siamo tutti uguali a scuola, siamo tutti uguali in ospedale, siamo tutti, ma in Trump, ecco, nel servizio siamo tutti uguali. Non è possibile alzarsi e cedere il posto a un milanese. Lei perché si è fatto sfuggire una battuta che ha messo a rumore il paese e credo in grave imbarazzo la Lega e il suo ministro Maroni? No, penso che di imbarazzati ce ne siano pochi. Io sono al Grattatoio stamattina dove passa il 15. Sì. Oggi se c'è qualcuno che ha dei problemi sui mezzi pubblici a Milano non è più Rosa, ma è la signora Maria o il signor Antonino di Cinisello Balsamo o di Cattolaro. Abbiamo semplicemente evidenziato un problema, la sicurezza sui mezzi pubblici, che per quanto riguarda le donne, italiane o straniere che siano... No, scusi, Salvini, la sicurezza sui mezzi pubblici, se lei avesse dichiarato, bisogna sorvegliare i treni, ci vuole la polizia nelle stazioni. Lei non ha detto questo, lei sia pure, spero, in battuta, e poi adesso mi confermerà, se non è una battuta, io alzo gli occhi al cielo da questo piccolo studio, guardi, vedo il tetto di su. Lei ha detto che bisogna riservare i posti o i vagoni ai milanesi, è una cosa pazzesca. L'interpretazione autentica da giornalista e quindi da collega è questa. Mi parlavamo di donne, di telecamere, di controllori. Detto questo, scherzando, ma per ovvi ed evidenti motivi che anche un tombino riesce a intuire, dicevamo che avanti di questo passo fra 15 anni, così come oggi ci sono le targhette che riservano i posti ai reduci di guerra, avanti di questo passo, e parlando di Libia e tutto quello che siete voi, ci saranno poi i posti riservati ai 4 milanesi sopravvissuti in quanto siamo razza in via di estinzione. Non occorre Einstein per intuire che questa non è una proposta politica ma è una battuta, se poi qualcuno la trasforma in proposta politica buon per loro. Falsino. Posso dire che la battuta in realtà come dire, è rivelatrice di una lettura del fenomeno dell'immigrazione che io considero sbagliata e che corrisponde peraltro a uno slogan della Lega che ha usato abbondantemente la Lega negli scorsi mesi, cioè non vogliamo fare la fine degli indiani che finiscono nelle riserve. Certo. Allora io vorrei dire a lei Salvini, che è lombardo, che non c'è più una cascina tra Bergamo e Verona dove quelli che mungono le vacche non abbia un turbante in testa. Attenzione, perché non è assolutamente vero. Ma come non è vero? Andiamo in giro, andiamo a vedere. E sta offendendo qualche migliaio di allevatori padani che si alzano alle 4 della Ma non sto offendendo nessuno, non faccia della propaganda come ha fatto ieri. Non sto offendendo nessuno. Io ho il massimo rispetto per gli allevatori che si alzano alle 4 del mattino. Insieme a quegli allevatori che si alzano alle 4 del mattino ci sono tantissimi lavoratori che quegli allevatori hanno assunto regolarmente e di cui sono contenti, che hanno il turbante in testa. Cioè, rappresentare gli immigrati solo sempre come un rischio, un pericolo, un'invasione, e non rendersi conto che in Italia senza la manodopera extracomunitaria un pezzo del nostro apparato produttivo avrebbe difficoltà a reggere, è non guardare la realtà. Tutto qui. Oh. Perdoni, se ci siano tanti immigrati, Milano accoglie 180.000 immigrati regolari. Benissimo, benissimo. Bravissime persone. Oh. Quelli che salgono sulla 90-91 o sulla metropolitana linea verde non sono fra queste bravissime persone. Ah, cioè tutti gli immigrati regolari cosa vanno in Mercedes a lavorare, non usano il metro, non usano i tram secondo lei? Dottor Fassino, quando ha preso l'ultima volta un tram a Milano? Ma io il tram lo prendo regolarmente sia a Milano che a Torino, e dove ci sono le metropolitane prendo anche le metropolitane. Oggi pomeriggio sulla 90-91. Ma certo che ci sono tantissimi immigrati. Se mi permette, pensare che gli unici che prendono i tram siano i clandestini, siano quelli che spacciano droga, siano quelli che delinquono, e tutti quelli che invece sono persone per bene, che sono la stragrande maggioranza, non prende il tram, è ridicolo. Siccome secondo me sul tram salgono sia quelli che spacciano droga sia quelli che vanno a lavorare regolarmente, la sua battuta di dire riserviamo i posti ai lombardi discrimina anche nei confronti di quello che è una persona per bene, questo lo dovrebbe capire da sé. Sa quali sono i primi a chiederci più rigore che ho incontrato anche ieri? Ieri ho incontrato la comunità rumena e la comunità nordafricana milanese, sono i primi a dirci basta, per favore basta. Ma guardi, io vado oltre, Salvini, io siccome andiamo insieme a incontrarli, ma guardi, siccome a piedi o in bicicletta, ma questo non... ma guardi, le dico di più se vuole. Io penso che si sta ponendo un problema nuovo in Italia, che non è soltanto l'immigrazione clandestina, che sta investendo anche l'immigrazione regolare, e cioè e la parte più povera della popolazione italiana comincia a percepire gli immigrati, quelli regolari, come dei competitori sulla propria condizione di vita, nel posto all'asilo nido, nel posto, nell'assegnazione di una scuola, di una casa popolare. Quindi io il tema ce l'ho presentissimo, soltanto che a differenza di lei non lo voglio risolvere con la discriminazione, con la segregazione. Sì, Salvini, scusi. Mi arrendo. No, cioè si deve arrendere assolutamente, anche perché noi dobbiamo continuare la trasmissione. Lei ce l'ha dirottata come un terrorista islamico. Allora, insomma, il problema è questo, spero che lei su questo convenga. Un conto è porre il problema della sicurezza, che naturalmente deve essere garantita per tutti i cittadini, milanesi, non milanesi, e deve essere garantita in modo serio, pubblicamente impegnativo. Un conto è dire i posti riservati. Quella non può che essere una brutta battutaccia un po' razzista, va bene? Brutto o bella giudicheranno coloro che prendono il tram. Giudicheranno sì, gli elettori radicalizzati, anti-immigrazione, che hanno paura e che la voteranno. Vabbè, le faccio tanti auguri, però questa è propaganda, non è dibattito politico, sono due cose molto diverse. Grazie, grazie Salvini. Grazie, che gliene pare al direttore del giornale di tutto questo, Mario Giordano? Che stamattina mi scopo... e comincio a preoccuparmi, no scherzo, in sintonia con Fassino, nel senso, con l'onorevole Fassino, nel senso che sono perfettamente d'accordo con quanto stava dicendo, perché la confusione che viene fatta in questo caso è fra la richiesta di rigore e la soluzione nei confronti della richiesta di rigore, cioè la discriminazione non può essere una risposta alla legittima e sacrosanta richiesta di rigore. Bene, passiamo alla Fiat. Giannini, come sta evolvendo l'avventura di Marchionne e che cosa possiamo chiedere a Fassino che sia interessante per il nostro pubblico sul caso Fiat? Marchionne, diciamo le spesucce nel mondo, Chrysler, Opel, America Latina, Sudafrica. Ma come sta evolvendo? A me sembra che Marchionne stia facendo un lavoro egregio, anche se temo onestamente che la campagna tedesca sia meno fortunata di quella americana, soprattutto perché in Germania le difese protezioniste sono più alte e aggiungo anche, secondo me, i pregiudizi anti-italiani sono un po' più radicati di quanto non lo siano negli Stati Uniti, dove effettivamente non c'era altra via che aprire a Fiat per evitare il fallimento di Chrysler. Quindi io vedo con qualche difficoltà la possibilità di integrazione con Opel. La domanda che si può fare a Fassino è, appunto, lo ricordava lei in apertura di trasmissione, lui è torinese, conosce molto bene la realtà industriale soprattutto del nord, ma non solo del nord, perché Fiat ha stabilimenti in tutta Italia. Laddove si arrivasse a questa integrazione, anche se per ora da parte del Lingotto arrivano smentite sulla possibilità che chiuda qualche impianto, in realtà invece, secondo le indiscrezioni sul piano che filtrano, la produzione del nuovo gruppo che sorgerebbe integrando Chrysler e Opel con il Lingotto prevederebbe un abbattimento del 20% di capacità produttiva, quindi qualche impianto io credo che chiuderà in Italia e da questo punto di vista una forza di sinistra, anche se Rutelli non la vuole più di sinistra, come il Partito Democratico, forse qualche cosa ha da dire. E che cosa ha da dire rispetto a questo scenario, che pure io credo sia necessitato dalla ovvia esigenza di poter competere con i player globali e quindi di ridurre capacità produttiva. Bene, perché si producono troppe auto rispetto al mercato che ne richiede. Ma io dico questo, intanto diciamo un sentimento di orgoglio da torinese ovviamente, no? Sì. Nel momento in cui su tutti gli schermi del mondo trionfa un film che si chiama Gran Torino, Torino si compra la Chrysler, che non è diciamo una piccola cosa. Io penso che la scelta che sta perseguendo la Fiat, in particolare il suo amministratore delegato Marchionne, sia una scelta ambiziosa, coraggiosa, naturalmente esposta anche a dei rischi, però giusta e va incoraggiata, perché è la dimostrazione, è una delle tante dimostrazioni del fatto che nella crisi della globalizzazione o si sta alla scala, alla dimensione giusta, o si muore. Perché l'idea di mettere insieme un grande gruppo produttivo di scala mondiale che ha un potenziale di 6 milioni di auto è l'unico modo per competere con i grandi player giapponesi, tedeschi come la Volkswagen o altri ancora, che stanno ormai a quelle dimensioni. Fiat da sola, Chrysler da sola, Opel da sola, magari sopravviverebbero ancora qualche anno, ma alla fine, diciamo, destinati fatalmente o a un declino o a essere assorbiti da qualcun altro. Marchionne ha giocato d'anticipo e ha... costruito, sta perseguendo, diciamo, un disegno che io penso vada incoraggiato. Tra l'altro con effetti di sinergia grossi. Grazie a questo accordo la Fiat, che non era più da tantissimo presente sul mercato americano, rientra sul mercato americano. Se si fa l'accordo Opel-Fiat c'è una sinergia di mix produttivo importante, perché la Opel è forte essenzialmente nelle medie cilindrate e la Fiat nelle piccole cilindrate. Naturalmente è chiaro che questi processi poi comportano riorganizzazione, ristrutturazione dell'organizzazione della produzione, degli stabilimenti, dei pesi. Anche finanziaria c'è, cioè questa riduzione del peso della famiglia. È ovvio, insomma, no? Tutto questo è ovvio. È anche ovvio che i sindacati chiedano giustamente di sapere, di conoscere, di negoziare, di contrattare, di avere delle garanzie. Diciamo, fa parte tutto del buon senso. Quindi è giusto il progetto, va sostenuto, va incoraggiato, bisogna cercare di realizzarlo nel migliore dei modi. È giusto che i sindacati chiedano di sapere, di contrattare, di avere anche le garanzie o gli strumenti alternativi alle garanzie che sono necessari. Dico, lei non andrà ai cancelli di Mirafiori stavolta a dire... Occupiamo. Ma vede, io questa pagina l'ho scritta e quindi non voglio adesso tornare a raccontarla, ma sarebbe interessante nel 25esimo anniversario della morte di Enrico Berlinguer, che cadrà proprio tra qualche giorno, rivisitare quell'episodio, perché occupate la Fiat, queste parole... Ah. Come sa Giuliano Ferrara, che era con me quella mattina lì, Berlinguer non le ha mai pronunciate. No. Non le ha mai pronunciate. Però, però è come la storia, è come la storia Maroni. Cioè, no, però ha detto: se la occupate, allora, noi siamo con qui voi. C'è il testimone, quindi un testimone certamente in grado di dire se dico la verità o no. Che poi era occupata Berlinguer, la verità, ma Berlinguer, che era molto preoccupato, come tutti i dirigenti sindacali e politici, dell'occupazione, per quello che rappresentava, usò una perifrasi che disse: naturalmente noi sosterremo tutte le decisioni che il movimento, che i lavoratori prenderanno insieme ai sindacati, nel presupposto che i sindacati non avrebbero mai detto occupazione. E quella frase fu tradotta nel suo contrario. Bene, non parleremo con l'onorevole Fassino del divorzio, del famoso divorzio, ormai non bisogna neanche dire tra chi e chi, perché tutti lo sanno, perché l'onorevole Fassino non ne ha voglia, dice che non gli sembra un tema, o sbaglio? No, io non penso che ci sia bisogno di nessun commento. Le vicende sono note, la gente ha sufficiente cervello per giudicare da sé. Questo mi sembra interessante. Voi che ne dite, Giordano? Non so, io non ho ancora sentito un leader, un dirigente politico che dice: ma non ho voglia di parlarne, andate al diavolo. Sì, però temo che a questo punto parlarne sarà inevitabile, quindi è una scelta in questo caso. Per noi gazzettieri, però i leader politici... Se non ne parlo, se ne parlo, un po' la Nanni Moretti, mi pare. No, dico, per noi gazzettieri è inevitabile, ma un leader politico può anche dire non mi va, no? Sì, un leader politico può anche dire, però io credo che questa vicenda, che è nata come vicenda privata, è stata poi trasformata immediatamente in un caso politico. Nel momento in cui diventa un caso politico, un politico legittimamente può non intervenire, non è tenuto a intervenire su tutti i casi politici, però è come dire... Se posso dire una cosa, l'unica cosa che sento dire è che l'unica cosa che non è credibile è pensare che ci sia un complotto della sinistra. Ecco, questa è l'unica cosa che non ha senso, diciamo, per me. No, fermo qui. Un complotto no, ma che sia stato usato questo cosa, assolutamente sì. Giannini, lei che pensa? Beh, io penso che... Si augura di sentire altri leader politici che diano questa risposta, oppure è della tesi di chi dice: no, Veronica Berlusconi ha posto una questione eminentemente politica. Io penso che, con tutto il rispetto per l'onorevole Fassino, quello che ha appena detto mi sembra un po' da sinistra invertebrata, nel senso che capisco che il leader voglia non parlare di questa questione se è una questione che riguarda il privato, ma io credo che qui ci sia aspetti che invece riguardano il rapporto tra il Presidente del Consiglio e il popolo italiano, perché, insisto, secondo me il Presidente del Consiglio non ha ancora risposto ad una serie di domande che attengono alla onestà, alla trasparenza che un grande statista come lui aspira ad essere, in qualche misura è, e secondo me deve avere nei confronti degli italiani. Ci sono troppe risposte alle quali ancora bisogna dar seguito. Non ci sono state, quindi io penso che la sinistra, centrosinistra, l'opposizione su questo debba incalzare. Io penso sulla riservatezza. Detto che ha fatto il complotto e c'è stato un complotto. Questo secondo me è una cosa intollerabile e il centro-sinistra dovrebbe... Vediamo se il parere di Giannini stana Fassino, se Fassino mantiene il suo principio di riservatezza. Continuo a pensare che noi dobbiamo contestare questa sciocchezza secondo cui ci sarebbe stato un complotto della sinistra, e non ho nessuna esitazione a dirlo, come lo hanno detto tutti i dirigenti del PD e del centrosinistra. Non credo che si debba andare oltre questo, nel senso che francamente penso che si rischia di scivolare su un terreno che non aumenta il credito e la credibilità della politica. Dopodiché, se ci sono domande che la stampa, che ha una funzione critica in una normale democrazia, non sono state date, sia la stampa, diciamo, a sollevarle e a sollecitare delle risposte. Bene, il referendum, onorevole Fassino, si terrà il 21 giugno. Può essere che sia una roba che non va in buca, cioè che non c'è il quorum. Può essere che il quorum ci sia. Nel caso che il quorum ci fosse, quello che succederà lo sappiamo tutti, vince il sì. E dunque vince l'idea di cambiare questa legge elettorale nel senso noto, cioè una lista arriva prima e si prende il premio di maggioranza. Conseguenza, dicono coloro che sono contrari alla decisione del Partito Democratico di partecipare al referendum e di votare sì, conseguenza Berlusconi ha un'arma in più. Può prendersi attraverso una maggioranza relativa del suo PDL una maggioranza assoluta e con quella fare quello che vuole per i prossimi anni. Ma guardi, io le rispondo così. Al liceo un professore mi disse una volta: guarda che è importante il testo, ma è anche sempre importante tener conto del contesto. Certo. Perché parto da qui? Perché se uno guarda il referendum nella sua testualità, non c'è dubbio che l'esito del referendum è quello di, diciamo, andare verso un sistema elettorale che sollecita, spinge, quasi costringe a due grandi listoni in alternativa. Certo. E due listoni in alternativa io li vedo con pericolo, non perché penso prende il premio Berlusconi, perché le leggi elettorali si fanno perché durino nel tempo, quindi certo, oggi vince Berlusconi, domani può vincere un altro, quindi non è questo. No, io penso che due listoni sono occasione di confusione politica, perché si rischia, per prendere il premio di maggioranza, di fare un'aggregazione elettorale così larga da poi essere, all'indomani del voto, se vince, incapace di governare perché caratterizzata da troppa disomogeneità. Però c'è un contesto politico di cui non possiamo non tener conto. Il contesto è la legge Calderoli, noi l'abbiamo sempre considerata una pessima legge e sarebbe curioso che adesso centrosinistra facesse votare in modo da difenderla. Certo. Pensiamo che in ogni caso serva una nuova legge, che il referendum non risolva, sia che passi una soluzione sia che passi l'altra, il problema di dare a questo paese una legge elettorale nuova, vera. Quindi noi diciamo, si voti sì, perché siamo sempre stati contro questa legge e certamente non la difendiamo noi, però noi diciamo che fin da oggi c'è un problema. Bisogna andare ad una legge elettorale che effettivamente sia diversa da quella di oggi, che tra l'altro, per esempio, restituisca agli elettori la possibilità di eleggersi gli eletti e non di dover subire gli eletti nominati dai leader dei partiti soltanto. Bene, abbiamo avuto pochi ascoltatori al microfono perché Matteo Salvini ci ha rubato un po' del loro spazio, gradevolmente, insomma, lo ringraziamo per essere intervenuto. Stefano da Brescia e poi chiudiamo. Buongiorno. Stefano. Sì, buongiorno. Buongiorno. Ascolti, io volevo semplicemente fare, io sono, premetto, sono un elettore di centrodestra convinto. Sì. Volevo comunque fare i miei complimenti all'onorevole Fassino, cosa che non avevo mai pensato di dire, perché ha di fatto dimostrato che anche nel centro-sinistra ci possono essere dei pensieri che non sono per forza legati al perbenismo o all'idealismo, ma o al contro-berlusconismo, ma sono anche legati a un pensiero personale sulla realtà di fatti, tant'è che io, lo dico senza problemi, voto Lega. E ho pensato che rispetto al colloquio avuto col sindaco pochi minuti fa avesse ragione Fassino. Ho capito, va bene, grazie. Non mi rassegno a pensare che lei possa anche magari cambiare opinione e votarci. Ecco, vuole subito il voto di Stefano da Brescia. Bene, grazie all'onorevole Fassino, grazie a Giannini, Massimo Giannini, vice direttore di Repubblica, e a Mario Giordano, direttore del giornale. Noi abbiamo esaurito il nostro tempo. In redazione Franca Fossati e Gloria Guerrera, in regia Paolo Corleoni e Giorgio Matè. Linea al GR, poi Gianluca Nicoletti con Melog 2.0. Grazie, ci vediamo, ci sentiamo lunedì. Che vediamo? Sentiamo, radio.